Sono le 18:30 e fuori c'è il sole. E tutto va bene. Bene, per riscaldarci direi che la nostra Lady J ci manderà una song che è Teacher di Blay & Bolley. Siamo nei ribelli. I'm Buonasera, benvenuti! Benvenuti! Allora, qui stasera abbiamo la sottoscritta Tecla e Andrea e abbiamo Lady J in regia. Ciao a tutti! Ciao ciao! Allora, prima di cominciare vorrei ricordare subitissimo i nostri canali dove poter scriverci e contattarci. Allora, per interagire in diretta, scrivere al canale Telegram, chiocciola Radio Zam, trattino basso, chat. Per seguirci su Facebook, Radio Z, trattino AM. Per seguire le ribelli su Instagram, invece, le trattino basso, ribelli, trattino basso, Zam, tutto minuscolo. Mentre per tutte le informazioni del mondo, del mondo in generale su Zam e anche per ritrovare i nostri podcast, visitare il sito www.zam-milano.com. Ok, bene. Andre, io direi di fare una piccola introduzione alla puntata e questa sera... Prego. Abbiamo voluto dare un taglio più soft, oserei dire, quasi un po' fiabesco. Questo perché confrontandoci durante le nostre assemblee, dopo una serie di argomenti che fino adesso che ruotano comunque sempre attorno alla nostra cara tematica femminista, che sono spesso politicamente toccanti, contemporanei, a volte a tratti anche pesanti, forse ci vuole un pizzico di leggerezza. Ecco perché dico fiabesco. Il tema sarà quindi bambini ed educazione all'accoglienza e alla diversità. È una tematica di cui abbiamo parlato anche in altre puntate, ma gli diamo sempre comunque un taglio diverso. Quindi, in generale, come educhiamo i bambini ad accogliere le tematiche di genere? Li educhiamo effettivamente allo stesso modo? Avremo quindi degli interventi che ci illustreranno questo percorso e ci aiuteranno a condurre, insomma, a viaggiare in questa nostra puntata. Quindi io direi che per riscaldare i nostri corpi e il nostro animo partiamo con il primo intervento, che è l'intervento della piccola Sophie, che ormai è diventata la protagonista, la pioniera delle nostre aperture di queste puntate dedicate ai più piccoli e alle più piccole. Credo ci leggerà delle bellissime storie che sono sempre molto particolari e curiose. Io andrò a chiamare la nostra mamma, in realtà chiamerò la mamma. Vado. Pronto? Ciao Virginia. Ciao Virginia. Ciao. Come stai? Stiamo bene, stiamo bene. Benvenuti di nuovo su Radio Le Ribelli. Ti abbiamo chiamato super puntuali, come puoi vedere, sono le 18:40 spaccate. Ma siete dei miti, infatti avevamo proprio il telefono in mano. Benissimo. Grazie, grazie per questa collaborazione sui tempi. ma grazie a te, guarda, ormai siete diventate come, non so se hai ascoltato un po' la nostra intro della puntata, ma ho detto che non abbiamo sentito, dici? Ho detto che Sophie ormai è la nostra pioniera delle aperture quando parliamo di bambini, che lei ci introduce sempre con le sue storie. E a lei piace molto. Ma siamo molto contenti di questo. Beh, allora lasciamole il palcoscenico. Allora, noi abbiamo avuto una una perplessità, perché Sophie aveva scelto Elmer, l'elefante variopinto che lei ama da anni, e le è piaciuto tanto perché parla proprio di diversità e di accettazione, chiaramente non in questi termini adulti, però è divertente perché da tutti gli altri elefanti grigi, no, è considerato diverso questo elefante variopinto, e a volte anche lui stesso si sente così e prova questa sensazione, no? Ma per fortuna poi la fantasia degli elefanti interviene. Il problema è che noi non siamo a casa e quindi abbiamo dovuto ripiegare su un'altra storia. Che sarà bella e ugualmente. E Sophie adesso vi leggerà, sì, parla sempre un po' di accettazione e di diversità, ma... a Sophie è piaciuta molto perché è in rima. Bene, allora avrò il piacere di parlare anche con Sophie. Io non ci ho mai parlato, sono sempre stata... Sì, allora... Non è vero, perché forse noi non ci siamo mai sentite. No, sì, perché praticamente durante la quarantena potevano venire qua solamente poche persone, e adesso che insomma hanno un po' aperto le porte, possiamo venire un po' tutte e condurre un po' la puntata. Quindi io sono molto emozionata di conoscere Sophie. Siamo tutte emozionatissime di conoscere Sophie, finalmente. Spero che lei non sia troppo timidina, ma non mi sembra timidina, sembra molto grinta. Sì, allora c'è della timidezza, Sophie sta parlando a gesti, ma non siamo in una video call. Perché magari non mi conosce. No, allora diciamo che finché c'è da leggere si presta, però a fare conversazione si blocca un pochino, ancora un po'. È un po' timidina. Adesso però le passo bene il microfono e forse lei vuole dire qualcosa. No, non vuole dire niente. Si vergogna. Va bene, un po'. Allora possiamo almeno dire ciao. Ciao Sophie, fammi sentire la tua vocina, dai. Non essere timida. Ciao, ma che bella che sei, guarda, hai proprio una bellissima, sei proprio portata per la radio, sei una bambina per la radio. Ma senti, ma quindi non ci vuoi leggere niente stasera? No. Come mai? Ma sei sicura? Pronto. Adesso vi leggo una storia. Ci facciamo uno scherzo. Ci hai fatto uno scherzetto. Ci hai messo la suspense. E che storia ci leggi? Allora, magari ci puoi dire che titolo ha. Il titolo è La coccinella senza pallini. Senza pallini. La coccinella senza pallini. Sono curiosa di sapere allora come mai è senza pallini. Cosa sarà successo? È nata così o qualcuno gliela tolti? È nata così. Quindi è un po' diversa. Pronti? Vai. Prontissimi. Abbiamo rotto il ghiaccio? Pronti via, Sophie. Abbiamo rotto il ghiaccio? Pronti, vai. Passeggiava in mezzo a un prato Nella, quando all'improvviso scorse un'altra coccinella. Come ti chiami? Chiese Nella interessata. Mi chiamo Cocci e sono molto disperata. E perché? E perché? Vabbè. Perché? E perché tanto abbattimento? Senza pallini neri? E perché? E perché tanto abbattimento? Perché non ho macchie nere come abbellimento. Senza pallini neri io sono nata. E con le altre coccinelle mi sento imbarazzata. Anche senza pallini tu rimani bella, disse sorridendo la cara e dolce Nella. Ma se proprio vuoi pallini, non ti preoccupare, insieme passo passo li andremo a cercare. Raggiunsero in fondo le due coccinelle. Guarda queste macchie, quanto sono belle. Sono pallini bianchi, ma sono così perfetti, che staranno molto bene se addosso te li metti. In mezzo al prato trovarono un pistacchio. Ecco, guarda qui, questo ti piacerà parecchio. È vero, è proprio bella. E mi donerà sicuramente, disse Cocci, volando allegramente. Dietro a un cespuglio c'era una bambina che giocava lì vicino e si chiamava Nina. Cos'hai sulla faccia? Le chiese allora Nella. Ho avuto il marbillo, mia cara coccinella. Che bei puntini rossi, me ne dai due per favore? Certo coccinella, te li do con tutto il cuore. Camminando, trovarono un dolcetto, il candito, che è lì sopra e a me sembra perfetto. Ne prenderò uno da appiccicarmi sulla schiena, così di bei pallini sembrerò più piena. Alla fine la coccinella capì la sua lezione, anche così era bella. Mamma, che emozione! Anche con quei pallini poteva essere amata, perché diversa dalle altre adesso era la più ammirata. È finita. Ma che bella! Bellissima! Quindi alla fine è finita bene. Sì. Ah, sì, ma senti, ma dove l'hai trovata questa storia? Su che libro è? Su internet. Ma ci siamo un po' affidati all'Left Copyright perché per avere qualcosa in rete, perché non abbiamo trovato. Ma va bene, benissimo, internet è un grande libro. Purtroppo è tutto sfocato, si leggeva molto, ma molto sei male, sei stata bravissima, Sofì, si è capito tutto benissimo. Ti è piaciuta la storia, te? Sì. E come mai? Cosa ti è piaciuto della storia? A me il nome è piaciuto tantissimo. Il nome Cocci. Sì. Cocci, sì. A me è piaciuto la fine. La fine, vero. Perché alla fine... Alla fine la Coccinella capì la sua lezione. Anche così era bella. Anche così era bella. Mamma, che emozione! Anche con quei pallini poteva essere amata. Perché anche se è diversa... Perché è diversa dalle altre ad essere la più ammirata. È la più ammirata. Amore. Amore, sì. Certo, bravissima. Hai colto proprio... il significato di questa storia. Tutti dovrebbero essere come te. Esatto. Tutti. Ma senti Sofì, ma quindi ci dai il permesso che quando faremo queste puntate ti possiamo chiamare e ci racconti sempre queste storie stupende? Sì. Sì, grazie. Ci fai un grandissimo regalo. Grazie. Allora, io devo dire che la metterò in radio più spesso, perché in realtà Sofì è una raccontatrice costante e perenne di storie inventate che lei immagina e in qualsiasi momento del giorno. E qui ma fa infatti fatica a spegnere la radiolina, ma guarda, devo dire che quando è in radio automaticamente si ammutolisce, ma in realtà ha una lettura perfetta, una dizione top, ne interpreta anche, sì, bravissima, esatto, è molto brava. Cosa? No, non vi abbiamo sentito. Le interpreta anche, è molto brava. Oltre che avere una bellissima voce da radio. Non vi abbiamo sentito questo pezzettino. Non ci senti più? Non ci senti? Ora ti sento. Ok. No, stiamo dicendo che Sofì ha una bellissima voce che interpreta le storie molto bene e sembra proprio una vera attrice, quindi è veramente portata per raccontare molto. Sì, sì. Beh, poi dicono in tanti. Complimento. Se lei inventa storie, perché non ce le inventa anche per noi? Se è acuita. Va bene, ma allora possiamo ringraziare e salutare. Grazie mille per questo spazio. Ma grazie a voi. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie, grazie a te Sofì. A presto. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Virgi. Grazie. Ciao, un bacione. Un bacione a voi. Un bacio a tutti. Un bacio a voi. Ciao ciao ciao. Oh, come sono rilassata dopo i racconti di Sofì. Proprio quel momento della giornata che attendi. Va bene, Andre, sono le 18:54. Esatto, e c'è ancora il sole e va tutto bene. Noi siamo le ribelli. Siamo le ribelli. E direi che adesso Lady J, la mandiamo questa canzone? E mandiamo questa canzone. Questo pezzone. Vale. Questo pezzone si chiama ABC dei Jackson 5. Hey! joy. So let's all grab and let's all enjoy. Eccoci di nuovo. Buonasera, di nuovo qui. Sono le 19.01. Mi piace, dire l'ora, incredibile. Così uno magari, non so, non ha sotto mano l'orologio e sa che ore sono. Vabbè, volevo dire una cavolata. Così. Vabbè, possiamo procedere con la nostra scaletta. E adesso avremo un intervento, direi, particolare, istruttivo, perché chiameremo un'educatrice che si chiama Martina e lavora con gli adolescenti e quindi ci parlerà un po', penso, della sua esperienza e di come, come incontrano e accolgono le tematiche di genere gli adolescenti. Quindi io direi di chiamarla subito. Così ci potrà spiegare. Che bello fare due cose insieme. Vado. Ciao. Pronto? Siamo le ribelli. Ciao Martina. Ciao. Come stai? Ciao. Bene, grazie. Tutto bene? Ciao, pronto? Ciao. Ah, hai la radio accesa? Brava, devo accendermi la radio, perché sennò mi sentivo molto strana, un po' di qua, un po' di là. Tranquilla. Stavo ascoltando Sofia anch'io prima, con le sue storie. Dolcina. Ero con la radio accesa. Ci hai detto che Serena purtroppo non può partecipare, giusto? Scusami, ti sento male, però ripetimi. Ho detto, se... ci hai detto che Serena non può partecipare, purtroppo. Serena purtroppo è ancora a lavoro, nel senso che poi noi educatrici, operatrici sociali, insomma un po' abbiamo questo piccolo problema dei tempi di lavoro, certo, e dei tempi di vita, e quindi lei in particolare lavora anche per un'associazione di volontariato, e quindi in questo periodo stanno lavorando su tutto il tema dei centri estivi, che potete immaginare è molto complicato, certo, per tutta i tempi si dilatano, insomma, per cui sta richiedendo molto impegno. Ecco. Guarda, vi capisco perfettamente, sono in perfetta sintonia con voi, perché anche io faccio l'educatrice con gli adolescenti, e infatti anche oggi mi hanno tirato fino alle 16:30, poi lavoro smart working, quindi non sai mai quando finisci, quando lavori con certi casi, insomma, anche particolari, quindi sono super solidale con voi. Esatto, quindi purtroppo mi ha scritto e mi ha detto: guarda, mi dispiace, non riesco a finire, e quindi le ho detto, vabbè, è un dispiacere, perché mi fa sempre piacere coinvolgere anche più persone nelle conversazioni, poi quando si chiacchiera un po' di educazione, di pedagogia, di adolescenti, secondo me è interessante anche avere più voci, ecco, però insomma, certo, mi dovrete accontentare di me. Ma noi siamo super contente. Senti, grazie, così, Martina. A casa chiusa, vi ringrazio. No, ti ringraziamo davvero. E volevamo farti un po' di domande, in realtà. Volevamo chiederti un po' di raccontarci quello che fai e di raccontare quello che fai, insomma. E, appunto, riguardo appunto le tematiche di genere e l'educazione, come funziona, insomma. Allora, quello che faccio è complesso, come appunto chi è educatrice come me sa bene, non si fa mai una cosa sola. Mi concentro però su tutta questa parte che ci può interessare di più, nel senso che io lavoro da tanti anni con un'associazione, e in particolare con gli adolescenti, sia in contesti aggregativi come i centri di aggregazione giovanile, sia nelle scuole. E nelle scuole in particolare ho iniziato troppi anni fa ormai a lavorare sulle sostanze stupefacenti come tema un po' di scelta prediletto, e negli ultimi anni invece siamo spostati un po', abbiamo avuto la possibilità e l'opportunità di fare anche dei progetti più legati alle questioni di genere, in particolare alla violenza di genere. Benissimo. Devo dire che, cioè, ci tengo a dire che ci è capitato, perché in Italia non è semplice parlare di questi temi a scuola, e ormai un po' chi è sensibile a queste tematiche lo sa. Ti do un sacco ragione. Esatto. Ci è capitato perché siamo riusciti a costruire un progetto europeo, quindi finanziato dall'Unione Europea, e devo dire, e dico ad altre educatrici o chi ci ascolta, che dovesse capitarvi, ecco, puntate sull'Europa, perché quantomeno paga, e paga in modo molto laico, nel senso che effettivamente si può sperimentare e si può fare dei progetti che l'Italia tendenzialmente non paga, e questo ci permette, lo dico brutale, tanto siamo fra di noi e siamo fra compagne, ecco, perché certo, è anche un po' un modo così, e questo ci permette poi di proporre dei progetti alle scuole gratuiti, completamente gratuiti e molto innovativi e sperimentali, che in realtà poi è abbastanza richiesto nel momento in cui riesci poi a entrare in relazione con le scuole, riuscire a fare delle cose, portare delle cose che non sono il consultorio, con tutto il rispetto per il consultorio ovviamente, che va a fare la lezione di educazione sessuale, ma magari un progetto che invece lavora un po' sulle relazioni e su come stanno i giovani, coinvolgendoli e rendendoli parte attiva, insomma, di una conversazione educativa, ecco, questo le scuole poi alla fine lo richiedono, per cui riuscire ad aggirare un po' dei vincoli politici, burocratici, amministrativi dell'Italia, e portare nelle scuole queste tematiche, in realtà poi è molto bello, è bello perché è gratificante, ma è gratificante non solo perché penso che noi nello specifico poi abbiamo fatto un progetto bello, ma perché ci rendiamo conto quanto sia utile in realtà farlo, e credo che per gli educatori, le educatrici, le operatrici sociali sentire e percepire l'utilità e l'efficacia di un lavoro che si sta facendo sia forse la parte più gratificante, ecco, del lavoro che facciamo, perché poi sicuramente non è lo stipendio, ecco, la parte gratificante, per cui ci accontentiamo di altro. Guarda, ma mi hai dato un'informazione utilissima, soprattutto perché lavoro, anch'io faccio l'educatrice in una scuola, ma sembra quasi impossibile poter entrare a fare un progetto del genere. Purtroppo non è molto molto difficile. Infatti complimenti se siete riusciti a fare questo progetto, perché io sento, percepisco, non so se anche per te così, che a volte gli educatori nelle scuole vengono messi un po' in disparte. Beh, io non lo so, credo che sia assolutamente così. Devo dire che tu mi sa che hai più esperienza di me. No, sì, devo dire che è sicuramente così, che tante volte è proprio per una serie di vincoli, nel senso che purtroppo la scuola, invece di migliorare, cioè nonostante la pedagogia e la teoria pedagogica stia migliorando, per cui si vada sempre più nella direzione di lezioni che non sono lezioni frontali, di attività laboratoriali, attività di gruppo, a partire dalle scuole primarie, ma in realtà non solo, in realtà questa è una ricerca che si sta cercando di fare anche un po' a tutti i livelli scolastici, poi in realtà le nostre istituzioni, diciamo, vanno nella direzione opposta, non si capisce come mai, ecco, c'è proprio una, non so come dire, una contraddizione fra quello che ci dice la teoria pedagogica e i pedagogisti, che non sono, poi non parliamo più, non so come dire, anche qui con tutto il rispetto di Don Milani, certo, degli assessori, che ancora sono estremamente attuali evidentemente, ma parliamo della nuova pedagogia, ecco, delle nuove ricerche, delle nuove sperimentazioni, eppure non sono ascoltate. Poi in realtà di fatto vediamo delle scuole che sono sempre più creatrici di persone con delle competenze, specifiche, tecniche, rivolte, esatto, al lavoro e possibilmente a una carriera. Che è proprio la scuola dove lavoro io, uguale. Esatto. Solo competenze tecniche. Perché sono tutte così, cioè tutte, poi qualcuna più, qualcuna meno, per carità, ma in realtà non sono tanto le scuole, sono proprio le indicazioni che arrivano dal Ministero e sono come, è come ci si aspetta che la scuola sia e venga fatta, perché in realtà poi ci sono un sacco di docenti a qualunque grado di scuola che sono veramente dei bravi docenti, dei bravi pedagogisti, certo, e questa cosa qui è veramente uno spreco. Se si riesce a entrare in relazione con loro, poi si possono portare delle cose innovative, ma chiaramente è un po' una fortuna, non so, è come un po' giocare alla lotteria, e per cui non sai mai bene cosa ti aspetti. Volevo chiederti, noi da un po' di anni stiamo facendo questa operazione, cioè di trovare dei finanziamenti in modo da portare i progetti gratuitamente, perché poi l'altro dato è questo, che le scuole devono fare per forza tutta una serie di progetti educativi e però non hanno i fondi e le risorse per farli, e per cui se si riesce a proporre qualcosa gratuitamente questo funziona. Anche qui la dico brutalmente, perché serve anche a noi dirci queste cose, ecco. E noi stiamo facendo questa operazione. È chiaro che questo apre un po' le porte alla qualunque, ma è vero anche che ci sono veramente tantissime associazioni cooperative, educatori e educatrici che lavorano molto bene, che fanno dei progetti veramente di qualità e di livello. E io, senza nessun tipo di modestia o umiltà, sono convinta che quello che abbiamo fatto nel passato è stato un progetto bellissimo, che adesso purtroppo facciamo un po' fatica. Ma infatti, parlacene un po'. Giusto, hai ragione. Vai. Perché noi abbiamo fatto un progetto appunto europeo con la Romania, l'Inghilterra, c'è un'università di Londra che faceva la valutazione, e la Svezia, abbiamo portato all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, quindi delle scuole superiori, la tematica della violenza di genere. Lavoravamo nello specifico su questo come mandato, nel senso che la call, diciamo, europea a cui abbiamo aderito era sulla violenza di genere. In realtà la domanda che noi ci siamo fatti all'origine di tutto questo è stata: come facciamo noi a lavorare con degli adolescenti sulla violenza di genere, quando in realtà tutto l'immaginario mainstream ci dice tutto il contrario di tutto, nel senso che poi nessuno ti dirà mai, soprattutto poi adolescenti, che picchiare una donna è giusto, però poi di fatto non si riconoscono, non sono proprio in grado di riconoscere dei comportamenti che sono scorretti, prevaricanti e via dicendo. C'è tanto si parla tanto adesso, per fortuna, fra l'altro, di bullismo e quindi di prevaricazione in quel senso, ma c'è ancora paura a parlare di violenza, di prevaricazione legata al genere, all'orientamento sessuale e via discorrendo. Ma infatti ti interrompo un attimo, sì, scusa, c'è anche molta... Parlo perché sennò io vado avanti all'infinito a parlare. Sei bravissima! Infatti ti volevo dire, c'è anche molta paura nel parlare di femminismo proprio, perché a me è capitato con degli studenti, uno studente in particolare, di parlare di femminismo, e lui, la prima cosa che, cioè, gli adolescenti non sanno cos'è il femminismo e ti rispondono, beh, allora vuol dire che se sei femminista odi gli uomini, no? E io quindi non ti sopporto perché sei femminista, mi ha detto così questo ragazzo, poi è un ragazzo particolare. Beh, ma questa effettivamente è la tendenza mi sento di comune. Dire, concedimelo dalla mia anzianità, che non è proprio un problema solo degli studenti delle scuole superiori. Ah, certo. Ecco. Per cui sì, assolutamente, nel senso che poi effettivamente l'altro dato è che bisogna sempre un po' girare attorno alle parole, no? Per cui per portare i progetti non puoi parlare di gender, perché sennò chissà che cazzo esatto, stai. Esatto, quindi quali sono le... come fate a... Ma allora, parlare di violenza di genere, in realtà parlare di violenza di genere nessuno ti potrà mai dire che non lo puoi fare dentro una scuola, anzi, evidentemente è un po' agli onori della cronaca. La differenza sta nel come lo fai. Per noi parlare di violenza di genere è stato decostruire tutti gli stereotipi, lavorare sul ruolo di genere all'interno della società e lavorare sulla comprensione proprio e riconoscimento di alcuni comportamenti sia subiti sia agiti che sono un po' il pre-violenza, no? Le molestie sessuali. Noi abbiamo lavorato tantissimo sulle molestie sessuali, ci siamo interrogati tantissimo perché in realtà non esiste una definizione chiara e condivisa di che cosa sia una molestia sessuale, ma in realtà peraltro non esiste, perché proprio a livello di definizione la molestia sessuale è un atteggiamento che risulta non gradito a chi lo riceve. Ora, un atteggiamento che risulta non gradito, ovviamente di tipo sessuale, con un qualche richiamo all'universo della sessualità, un comportamento che risulta non gradito a chi lo riceve, effettivamente lascia aperte tantissime possibilità. In Italia, perché in tante parti del mondo in realtà non è più così, ma in Italia il fatto di lasciare aperte tantissime possibilità in realtà lo fa percepire pochissimo, come una cosa che non esiste. Per cui noi parlavamo con ragazze e con ragazzi che ci raccontavano esperienze agite o subite, chiaramente che noi con un po' di sensibilità e un po' di competenza anche sul tema connotiamo come molestia sessuale, ma senza rendersene conto. Certo. Perché non hanno quella percezione, perché no. Quando può essere qualunque cosa, allora in realtà però io non volevo offendere, ma con sincerità lo dicono, no, nel senso che poi a volte c'è quella paraculata del ma io stavo scherzando e va bene, ma a volte in realtà è vero, cioè a volte è vero che è un gioco e che non c'è dietro assolutamente la volontà di offendere qualcuno, di ferire qualcuno. Il problema è riuscire poi a raccogliere il fatto che l'altra persona invece ne risulti offesa e ne risulti ferita. Sì, perché poi da un comportamento, da una parola che io agisco. Spesso i ragazzi lo dicono proprio, ma io stavo giocando, sto giocando, però non si accorge che magari puoi offendere la tua compagna, il tuo compagno. Cioè, mi capita di vedere queste scene, no, anche a scuola. Ma infatti è esattamente questo il punto, esatto. No? Ma io non metto in discussione il fatto che loro stessero giocando, perché secondo me poi è importante anche questo. E il passo, per esempio, grosso che io ho dovuto fare da appunto compagna militante femminista, il passo grosso che io ho dovuto fare è stato proprio anche di accogliere delle posizioni estremamente lontane dalla mia, ideologicamente, certo, parlando. E non è semplice, no, in verità, ma io penso che questo sia un passaggio che gli educatori e le educatrici devono imparare a fare, perché io non ti devo dare una realtà e rivelata, no? La verità e la giustizia. Io devo aiutarti a riflettere sul fatto che forse devi imparare a percepire in modo diverso anche l'altro, ad accoglierlo e a capire cosa prova un'altra persona rispetto a quando tu agisci in un certo modo. e forse farti questa domanda ti permette poi in futuro di agire in modo diverso. Io credo che sia questo il passaggio che possiamo fare noi e che possiamo fare quando parliamo di violenza di genere con gli adolescenti, e quindi ovviamente anche di orientamenti sessuali, di molestie, di genere in assoluto, di differenze e di stereotipi e via dicendo. Ecco, credo che sia un po' questo il nostro lavoro, ed è quello su cui noi abbiamo lavorato poi con uno strumento bellissimo che mi piacerebbe tanto potervi dire che potete scaricare gratuitamente dal sito, ma attualmente il sito non è online, stiamo lavorando per farlo tornare online e quindi ve lo comunicherò molto, perché è uno strumento, però un mazzo di carte bellissimo, fra l'altro disegnato da una bravissima artista che si chiama Arianna Vairo, che può essere utilizzato nei gruppi che è copyleft, ecco, per cui in realtà noi ci fa molto piacere mandarlo in giro alla gente, farlo stampare e fare in modo che tutti lo utilizzino nel modo più open possibile, e magari anche scambiarci poi delle informazioni sulle modalità che ognuno utilizza, perché le storie possono essere anche molto diverse, ecco. Guarda, ma sai che Martina, ti ringrazio tantissimo, perché io faccio l'educatrice veramente da pochissimo, da settembre, quindi mi hai dato delle informazioni a me, ma come a tutti e a tutte, veramente di grande aiuto. E dovrebbero essere tutti come te gli educatori. Beh, dai, ce ne sono tanti di educatori ed educatrici come me, per fortuna. Io devo dire che, come voi, credo, aggiungo al pezzo educativo, aggiungo un pezzo molto politico. Sì. Ecco, e secondo me questo un pochino ci distingue da tutta una bella onda di educatori che studiano all'università e diventano educatori in questo modo. Noi stiamo dentro alle cose, stiamo con le persone, e secondo me questo un po' ci distingue. Mi permetto di dirmelo. No, no, fai benissimo. Ma le do anche a voi, nel senso che io credo che abbia cambiato il mio modo di stare e la mia sensibilità nei confronti degli altri, per cui sono sicura che un giorno riusciremo a fare grandi cose, spero, ecco. Ma no, ma guarda, sì. Ma complimenti per il lavoro che state facendo. Volevo dirti un'ultima domanda, qual è stata la risposta degli adolescenti a questi progetti? Ah certo, ecco, scusami, hai ragione. Peraltro ci sono due cose interessanti, scusa, che non vi ho detto. Una è che noi abbiamo lavorato sia con gli adolescenti che con gli adulti, per cui abbiamo lavorato anche con tutti gli insegnanti delle scuole in cui andavamo a lavorare, e abbiamo fatto che bel progetto. Esattamente lo stesso progetto, cioè abbiamo fatto le stesse attività con gli adolescenti e con gli adulti, e già è curioso, nel senso che li abbiamo trattati esattamente nello stesso modo. Ovviamente le risposte sono differenti, però il tema è che mancano delle competenze da tutte le parti. Gli adolescenti ovviamente, e qui lo dico ovviamente per chi lavora con gli adolescenti, sono stati estremamente disponibili, nel senso che hanno davvero bisogno di parlare di questi temi, non solo di questi, ma hanno soprattutto bisogno di un confronto autentico con degli adulti che possano diventare persone di riferimento e che li riconoscano come persone in quanto tali, anche se adolescenti, non per questo appunto non ancora degni di essere presi in considerazione per delle riflessioni, e hanno tirato fuori veramente tantissime cose anche estremamente personali, che non era scontato, per cui ci sono stati anche dei momenti in cui per esempio noi ci siamo sentiti addirittura un po' a disagio e ci siamo dovuti interrogare su cosa fare di alcune storie che ci venivano raccontate, perché in effetti forse valeva la pena di segnalarle alla scuola, ai servizi, eccetera eccetera. Ma poi se appunto riesci a superare un po' quella fiducia. Scusami. Se riesci a superare quella specie di soglia che si crea con gli adolescenti, quando riesci ad arrivare in confidenza, io noto molto questo, io poi lavoro singolarmente, non a gruppi, allora poi loro si liberano e ma dopo un tot di tempo, no? Riescono poi ma perché ne hanno bisogno, ne hanno un sacco bisogno, ne hanno bisogno e ne hanno voglia, loro ti mettono quello un po'. Quello che noi dobbiamo fare è veramente dargli la dignità di individui, esatto, in quanto tali. Il problema degli adulti con gli adolescenti è che dicono vabbè, ma sono ragazzini. Sì. Prima di tutto ci dimentichiamo di quando siamo stati ragazzini, certo, deficienti noi, che voglio dire, già ognuno se si guardasse alle spalle tendenzialmente un'idea se la farebbe di tutti gli errori che si possono fare, e che è giusto fare peraltro, perché sono quelli che poi ci trasformano nelle persone che siamo, ma soprattutto il fatto di non essere ancora un adulto fatto e finito, peraltro spero di esserlo solo quando muoio, un adulto fatto e finito, e di continuare a cambiare nel frattempo. Il fatto di non essere un adulto fatto e finito non mi rende una persona meno degna di essere presa in considerazione come tale. È chiaro che io ho degli strumenti diversi rispetto a quello di un adolescente, è chiaro che le conversazioni che faccio con voi, faccio con un mio collega pari o con la mia amica, sono diverse da quelle che faccio con un adolescente, ma quando noi, cioè finché noi continuiamo a mantenere la curiosità di conoscere, ecco, io credo che loro percepiranno in noi degli adulti verosimili, credibili e legittimi, ecco, e quindi hai detto ci proprio a casa delle relazioni significative. Hai detto proprio una cosa nella quale mi rispecchio tantissimo, proprio quando riesci a, quando ti incuriosisci, quando ti metti un po' al loro livello, allora lì è il momento in cui loro si aprono. Cioè, io ho notato molto questa cosa nella mia piccola esperienza. Quindi hai detto proprio una cosa. Ma perché loro percepiscono che a te interessa quello che hanno da dire. Esatto. Sì, sì, che sì, sembra sì. Una banalità, no? Perché diceva, però anche quando io esco a cena con la mia amica, se io una tosta persona ai cazzi miei, e lei lo vede, se non mi interessa, smetterà di raccontarmi. Sì, è una... Se a me interessa, lei mi racconterà. Cioè, sembra banale davvero se poi ci vai a pensare, ma non è così semplice non sentirsi superiori e già arrivati quando hai a che fare con dei ragazzi più giovani, delle ragazze più giovani di te. Benissimo, Martina, io no, mi sa che Andrea invece ha una domanda da farti. Io, Andrea, volete, io volevo, non c'è problema, non so cosa avete in scaletta, allora, non dopo. So, ma... non so se farlo adesso oppure mandiamo una canzone e continuiamo la... No, ma facciamo ora. Dai. Falla pure adesso. Ok, sì, sì. Io volevo chiederti una cosa da un punto di vista tecnico, ovvero... Come funzionano questi laboratori, questi progetti all'interno delle scuole, appunto, proprio da un punto di vista tecnico? Cioè, io ti parlo da completamente vergine e a riguardo e non ho idea di come funzionano, quindi mi chiedo in che modo ci si approccia, appunto, e come strutturarlo, insomma, come lo strutturate? Ma allora, tolto il fatto che ovviamente di metodologie ce ne sono tante e tante hanno senso, quindi poi ognuno deve costruirsi un po' una metodologia in cui si trova bene. Noi per esempio, io da sempre lavoro ad esempio in gruppi classe, due operatori, operatrici, in un gruppo classe senza gli insegnanti, okay. Con tutto il rispetto per il ruolo dell'insegnante, ma alcuni temi secondo me è meglio trattare senza di loro. Ti do ragione. In gruppi classe che vengono destrutturati, in cui il setting, diciamo, viene strutturato, per cui togliamo i banchi, ci mettiamo in cerchio, con tutta una dimensione prima di conoscenza molto aperta, molto anche presa alla larga, la dico anche qui con semplicità, per poi provare a proporre dei temi di discussione con delle attività che in questo caso appunto sono state create con questo mazzo di carte, ma possono essere molte, in cui i ragazzi e le ragazze possano trovare lo spazio per esprimere la propria opinione, il proprio pensiero, ovviamente dando come uniche regole la sospensione del giudizio in okay, quel momento, certo. Nel senso che poi ovviamente cioè l'assenza di giudizio non esiste, ecco, io parto da questo presupposto, no? Sono sicura che non esiste anche da parte nostra, però è chiaro che noi riusciamo ad avere un confronto davvero efficace solo nel momento in cui io sospendo il mio giudizio e provo ad ascoltare l'altro e ad ascoltarlo in maniera attiva, e questo è quello che noi cerchiamo di fare con i ragazzi e le ragazze che incontriamo. Okay, quindi richiedete una sorta di... Ci definiamo più facilitatori che educatori, in verità, nel momento in cui andiamo in classe, nel senso che ci piace pensare che facilitiamo una conversazione fra i ragazzi e le ragazze, in cui noi magari facciamo emergere alcuni punti specifici, mettiamo la luce su alcune cose che ci sembrano di senso, in positivo e in negativo, vale tutto, ma quello che ci interessa è aprire una conversazione fra di loro. E questo appunto, poi ci sono tanti strumenti per farlo, però effettivamente permette a loro di conoscersi di più, nel senso che poi spesso passano ore e ore insieme ma non sanno niente uno dell'altra. Un'altra cosa fondamentale. Cioè vero. Qualcosa che succedeva anche a noi, ecco, nel senso che la scuola poi è così effettivamente, no? Per cui quel lavoro lì non c'è mai ed è molto sottovalutato, soprattutto nelle superiori, nel senso che magari fino alle medie appunto si lavora un pochino di più sul gruppo, poi viene completamente abbandonato come interesse, e in realtà è davvero, dovrebbe essere uno degli elementi fondamentali, insomma, del lavoro nei gruppi classe. e cercando di tenere appunto una, non so, un fil rouge, un tema che ci dice stiamo parlando di questo, ma soprattutto ognuno deve avere la legittimità e la libertà di poter esprimere quello che vuole e quello che si sente di esprimere, nel senso che nessuno è obbligato poi a raccontare qualsiasi cosa. Io credo molto in questo modo di stare con i ragazzi, di fare degli incontri. Se lo fai in questo modo, paradossalmente il tema diventa secondario, nel senso che puoi applicare qualunque tema a questo modo di conversare. No, è proprio il metodo giusto, cioè proprio questo. Ma esatto. Io mi ci ritrovo molto. Noi abbiamo delle idee, cioè io ho messo delle definizioni banalmente, sono andata nelle classi a dire cos'è la molestia sessuale, cos'è la violenza di genere, cos'è il sessismo, cos'è il bullismo e che differenza c'è fra uno e l'altro. Per me questi sono paletti che ho portato in tutte le classi, ma per portare questi paletti io devo arrivarci insieme ai ragazzi, non posso fare lezioni, ecco, un po' per me la tecnica poi è questa, ecco, per quanto si possa parlare di tecnica, poi forse anche un po' di sensibilità, ma anche della tecnica c'è, ecco, se no studiare sarebbe inutile, in verità non lo è poi così tanto, ecco. Va bene, grazie mille allora. Senti, ma l'ultima cosa, Martina, come si chiama? Ripetici il nome del progetto, che così lo segno. Allora, il progetto si chiama Me and You and Everyone We Know, come un famoso film, quindi senza sì. grossa fantasia da parte nostra. Ora, c'era un sito, ma se adesso l'ho andata a cercare non vi dico neanche bene come si chiamava, perché paradossalmente poi è diventato un sito di escort, cioè no. nel senso che a un certo punto è scaduto il dominio che aveva aperto in realtà il nostro partner svedese, quindi nel frattempo è diventato un sito di escort, con grande gioia della Commissione Europea che ci sta addosso in questo momento, perché dobbiamo farlo rimettere online. Noi lo rimetteremo online, quindi io peraltro il materiale è appunto, noi lo mandiamo in giro anche assolutamente gratuitamente, non c'è proprio copyleft, per cui se dovesse interessarvi, io lo dico sempre, magari non vi dico adesso la mia mail o il mio numero di telefono in diretta, però il mio contatto ce l'avete, perché se qualcuno dovesse interessare a voi o ad altri, io sono ben disponibile certo. a mandare i materiali, ma anche ad incontrarci, ecco, ma sicuramente mi farebbe molto piacere. Io sono interessatissima, quindi ora che ti ho conosciuto anche stranamente in radio, quindi in questa conoscenza che non è fisica ma virtuale, non vedo l'ora di poterti incontrare e poterne anche parlare di queste cose. Da quanti anni è che fai l'educatrice? Ho iniziato giovanissimissimissima dal 2004. Ah, caspita, io ho iniziato adesso, ecco. Io ho 28 anni, ho iniziato ora. Quindi sono un po' fresca. No, ma io ho iniziato prestissimo, nel senso che sono giovane, non è vero. Ho iniziato sì che facevo l'università, poi in realtà ho smesso, quindi sto facendo l'università adesso, peraltro, mm-hmm. perché sapete che è obbligatorio adesso avere un titolo di studio, sì. c'è stata anche tutta la riforma dei sì. titoli, bla bla bla, quindi la sto finendo adesso. In realtà devo dire, dico a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, che studiare da grandi è molto più bello che studiare da piccoli, così. Se vi è piaciuto studiare ci mancherebbe, a me non piaceva tanto, per esempio, quindi a un certo punto ho mollato tutto, ma perché potevo lavorare in questo lavoro appunto senza avere titoli. Adesso sono stata costretta ad iscrivermi, sì. e devo dire che tutto sommato, nonostante la fatica, è anche una bella esperienza. Certo, aumenta la curiosità. Io più cresco, ecco, più insomma. Amo studiare, devo dire la verità. Cosa. Cioè, era una gran cazzona prima. Va bene, Marti. Allora, ti salutiamo e grazie veramente. Grazie mille. È stato molto interessante. Ciao Marti, sono la Gè, ti abbraccio tantissimo. Grazie a voi, ragazzi. È stato un piacere. Quando volete, i contatti ce li avete. E ci sentiremo per questo o per altro, insomma, io ma sono certo. sempre disponibile. Guarda, la puntata sull'educativa, sull'educazione, bambini, adolescenti, eccetera, è una puntata che spesso si ripete, perché la facciamo... Ci risentiremo quindi, sicuramente. Sicuramente verrai magari richiamata più avanti. Magari quando ci farai sapere se quando rifarai questo progetto ce ne potrai riparlare. Quindi... Certo, certo. Va bene. Molto volentieri. E vi ringrazio anzi per l'invito, è stato davvero un piacere. A te. Grazie a te. Ciao Marti. Ciao, buona serata. Grazie, ciao ciao. Ciao. Wow. Mamma, che bomba. Quanta informazione. Il mio cervello sta iniziando a fare troppe cose. Anche io avrei voluto avere un'educatrice. Effettivamente, che trattasse di queste tematiche a scuola. Un'educatrice femminista, no, guarda, ce ne sono veramente, veramente poche come lei, e soprattutto anche perché, a parte questo, ma poi è difficilissimo poter entrare nelle scuole e parlare di queste tematiche. Io nella mia piccola esperienza sto riscontrando molto questa cosa, nella scuola dove lavoro io non è neanche minimamente accennato nulla di tutto ciò. Beh, basti pensare che l'educazione sessuale all'interno delle scuole è un tabù, non viene accettato, nonostante quasi tutti gli stati europei l'hanno inserito all'interno dei programmi scolastici, invece in Italia no, questo è molto grave e si vede anche. Esatto, ma poi anche un'altra cosa che mi fa molto arrabbiare, adesso forse sto un attimo cambiando il filo del discorso, ma che Martina ha detto, quando gli insegnanti dicono ma tanto sono ragazzi, non capiscono, ed è una cosa verissima, perché gran parte degli insegnanti, con tutto il rispetto, dicono queste cose davanti agli studenti, si fanno anche sentire, quindi poi immagina come viene educato poi un adolescente, che poi, no? Non capiscono, non è vero, perché è stata, cioè, esatto, è una gran parte della formazione di un individuo, anche l'adolescenza, e comunque, a partire da prima, se tu dai determinati codici, questi si perpetuano nel tempo e li porti avanti, quindi dare per scontato che non capiscano, insomma, vuol dire che forse non si è capito bene che cosa sia l'educazione. Va bene, io direi andrei avanti a dibattere, sì, veramente, ma tanto, un'altra mezz'ora, ma dobbiamo dare spazio. Ma tanto avremo modo di dibattere dopo. Dobbiamo dare spazio anche agli altri interventi. E quindi, alla musica, direi. Lady. Siamo in radio. Allora facciamo che mettiamo la prossima canzone, che è La Manghelegna di Martina Camargo. Cante el coche cuando está en su lavadero, más bonito. Eccoci tornate, la canzone che avete appena ascoltato era I Follow Rivers di Lickley. E sono le 19.42, benvenuti e ritornati sulle Ribelli, nella puntata delle Ribelli. Adesso vi ricorderemo i nostri canali dove poter interagire con noi, faremo questa performance in diretta. Allora, punto 1, per interagire in diretta, scrivere al canale Telegram, chiocciola Radio Zam, trattino basso, chat. Per seguirci su Facebook, Radio Z, trattino AM. Per seguire le Ribelli su Instagram, tutto minuscolo, le trattino basso, Ribelli, trattino basso, Zam. Per tutte le informazioni sul mondo ZAM e le altre cose, www.zam-milano.com. Benissimo, allora adesso direi che possiamo procedere con la nostra scaletta. Con la nostra scaletta, adesso. Andrea, illustraci il nostro prossimo intervento. Allora, il prossimo intervento parlerà in realtà di un libro che ha, diciamo, posto le basi di quella che è una ricerca pedagogica sull'educazione alle pari opportunità. Ovvero in realtà ha un'educazione di genere e che... Mi sentite? Sì? Noi ti sentiamo benissimo, mi sentite, non so gli ascoltatori. Ho sempre questo problema col microfono che dovrebbe seguire. Devi limonartelo, devo limonarmi. È il tuo uomo il microfono. Ok, vai. Va bene, ritorniamo al nostro libro. E questo libro è stato scritto da Elena Giannini Belotti, che è appunto una ricercatrice degli anni 60 e degli anni 70. Diciamo che lei lavora nel periodo femminista, diciamo, della seconda ondata femminista, e appunto lei si domanda... pone le sue ricerche sulla base di anche altre antropologhe come Margaret Mead, e tutte ci dicono: ma alla fine perché noi dobbiamo vivere di stereotipi, perché di questo si parla, e non effettivamente di quella che è la realtà dei fatti. E chi ci illustrerà questo libro è Alessia, che ci farà diverse letture. Anche lei è una ribelle, ricordiamo. Assolutamente, nostra compagna e ribelle. E lei farà appunto queste letture in cui ci illustrerà un po' la filosofia di questa autrice, perché alla fine è di questo quello che si tratta nell'educare alle pari opportunità. E quindi io manderei la prima lettura, perché lei non può essere qua e non può essere in diretta con noi. La salutiamo comunque. Ciao Alessia, ricordiamo che Alessia è una regista. Esatto. Regista teatrale. E bene, mandiamolo. Vado subito. Dal capitolo 1, l'attesa del figlio. Se ogni figlio fosse visto come un individuo unico, provvisto di potenzialità proprie e al quale offrire il massimo per aiutarlo a svilupparsi nella sua direzione, la questione del sesso perderebbe automaticamente importanza. Invece il maschio è desiderato per se stesso, per il prestigio che la sua nascita proietta sulla famiglia, per l'autorità che avrà all'interno di essa e fuori, per quello che realizzerà. La femmina è desiderata in base a una scala di valori, per così dire, di comodo. Le femmine sono più affettuose. I genitori si aspettano di essere più amati. I maschi non sono per niente affettuosi. Le femmine sentono più la gratitudine. L'orrendo ricatto si delinea. Ai maschi non se ne chiederà mai altrettanta. Le femmine sono carine, un oggetto, una cosa con cui giocare. Le femmine, vestirle dà soddisfazione. Non valgono per se stesse, ma per il loro aspetto. Non è la loro intelligenza che si apprezza, ma la loro bellezza. Le femmine fanno compagnia in casa. Nessuno si aspetta che un maschio faccia compagnia, appena può se ne va fuori di casa. Le femmine aiutano nelle faccende domestiche. Non sono, non ci si aspetta che i maschi lo facciano, ma glielo si impedisce. A ben altre mete sono destinati. Eppure, nonostante tutti questi giudizi sull'affettuosità, dolcezza, remissività e laboriosità della donna, nonostante allevarle costi meno, perché in generale si dà loro meno istruzione che ai maschi, è opinione comune che le femmine siano più difficili da educare. Perché? È molto più difficile e faticoso comprimere energie spesso prepotenti e pretendere che si ripieghino su se stesse per poi atrofizzarsi lentamente, piuttosto che dar libero corso a tali energie, anzi stimolarle a realizzare qualcosa di concreto. È più semplice spingere un individuo verso il proprio sviluppo che reprimere l'impulso all'autorealizzazione presente in tutti gli individui, a prescindere dal sesso. La femmina, inibita nel proprio sviluppo, è costretta a organizzare autodifese per non soccombere, e soprattutto nei casi in cui le energie erano particolarmente vivaci e hanno richiesto massicci interventi repressivi, manifesta tratti caratteriali che non sono affatto tipici del sesso femminile come si pensa, ma sono semplicemente il prodotto della castrazione psicologica operata ai suoi danni. Bambine scontente, capricciose, piagnucolose, autolesioniste, pigre, inerti, passive, prive di interessi, ribelli senza sapere esattamente contro chi e contro cosa, incerte su quello che vogliono, sono il risultato di questa operazione. Sorta di esseri impotenti, che avvertono acutamente la loro condizione e vi si dibattono con pavidità, incertezza, isterismo, in un perenne stato di ambivalenza verso se stessi e gli altri. Eccoci qua. Che paroloni, wow. Eh sì, perché quello che effettivamente ritroviamo ancora oggi è proprio questo, il fatto che all'interno cioè si parla di parità, di opportunità, ma perché effettivamente, per esempio, a livello educativo noi abbiamo la parità di diritti nell'educazione, ma in realtà il metodo educativo è estremamente diverso, anche se apparentemente non è così, perché appunto per parità non si intende un adeguamento alla norma uomo, maschile, e quindi far ricadere il bambino in un'educazione dove lui si ritrova ad avere uno suolo di possibilità davanti infinite, e una bambina che sì, conosce le possibilità di un individuo, ma non sono le possibilità che lei può poi assumersi. Lei avrà sicuramente dei ruoli e avrà sicuramente anche delle nevrosi rispetto alla sua propria natura, rispetto a quello che poi li vanno a richiedere o la società li va a richiedere. Per questo è il problema che, poi, no? Esatto. La società. È ciò che appunto ci insegnano da piccoli è questo. Quando noi cresciamo, in realtà vi assicuro che non è così. E per esempio studi più recenti che si appoggiano appunto alla filosofia della Belotti hanno, per esempio, c'è stato un progetto europeo che si chiama Progetto Polite, che attraversa quelle che sono gli studi della letteratura che viene utilizzata dalle elementari alle superiori all'interno delle scuole, e in esse ci sono dei risultati agghiaccianti. Perché io prendo un altro grande argomentone, la letteratura che viene insegnata nelle scuole. E letteratura e anche, per esempio, le storie che vengono utilizzate, i libri di testo, cioè, vi faccio un piccolo esempio, facendo un'analisi di quelle che sono state per esempio i protagonisti di queste storie, sono il rapporto maschio-femmina è più o meno 16-10, ok? Quindi per 16 protagonisti maschi ce ne sono 10 femmine, e molto spesso in realtà non sono protagoniste, ma sono dei hanno dei ruoli secondari. E un'altra cosa molto abbastanza pesante è che vengono utilizzati una serie di aggettivi, per esempio anche tutto il discorso della linguistica che viene utilizzato all'interno dagli insegnanti, e non viene capito che effettivamente se si dà una sessualità e un genere anche, per esempio, a degli aggettivi, perché sembra scontato, ma noi aggettivi come isterica, esatto, quante volte la sentiamo, no? E viene reiterata nel tempo. Pazza. Volete, tirate fuori altre. O banalmente la casalinga. La casalinga. No? E tutti, insomma, non quasi mai sentiamo il casalingo, o che viene effettivamente trattato a livello lavorativo un uomo in questo modo. E spesso ci viene detto da bambine: sei una bambina, quando sarai grande farai la casalinga come la mamma. No, più che altro è perché anche e soprattutto, poi ne riparleremo anche con Tecla, è anche nella dimensione del gioco, nel senso, esatto, che la dimensione del gioco è una dimensione importantissima, e lo dico non soltanto da un punto di vista educativo di infanzia, ma in realtà anche per noi il gioco è importante, e capire che se per esempio una bambina viene sempre data la bambola e viene insegnato a fare la mamma della e per esempio la si loda perché è ha questo istinto precoce materno, lei si vedrà sempre stimolata a vedersi solo in quel modo e non a seguire effettivamente il proprio istinto, perché il bambino non viene messo nel suo ruolo genitoriale fin dall'infanzia. Quindi la cosa che poi anche oggi ci si chiede è, quindi, quant'è difficile riuscire a trattare un bambino e una bambina allo stesso modo dalla nascita, e quindi dare loro gli stessi input e quindi dare loro le stesse possibilità di vita e di realizzazione, e quindi anche creare meno frustrazione e insegnare sia ai bambini e alle bambine un rispetto reciproco abbastanza palese, se effettivamente gli si dà la possibilità di svilupparsi in ugual modo. Sì, anche perché poi i giochi soprattutto sono un po' lo specchio dei bambini, no? Come ad esempio, visto che hai tirato fuori il discorso della bambola, poi la bambina ci si rispecchia e tratta la bambola come se fosse se stessa, e quindi è fondamentale il ruolo poi del genitore, delle parole che usa con il proprio figlio. E quindi cosa facciamo, Andre? Vogliamo andare avanti con i prossimi audio? Sì, della sì, nostra Alessia? Sì, andiamo avanti, che tanto c'è da dire. Le tematiche sono infinite. Ah, sì. Allora, pane per i nostri denti, poi. Vado. Vai. Dal capitolo 2, la prima infanzia, si parla ancora dell'invidia del pene. Io ce l'ho e tu no è una realtà anatomica che non può essere contraddetta, ma c'è molto da discutere se l'invidia del pene sia, come sostiene la psicanalisi, un elemento della psicologia femminile che ha radici nelle differenze anatomiche tra i due sessi, o piuttosto non abbia invece radici sociali. Insomma, le bambine invidiano i maschi perché quelli possiedono il pene, o li invidiano perché, essendo possessori del pene, godono di innumerevoli privilegi che loro non hanno? Non è difficile per la bambina dedurre, dall'autorità che il padre ha in casa, dalla considerazione in cui la sua figura viene tenuta dalla madre e dai familiari, dal lavoro che il padre svolge fuori di casa, dalla dipendenza economica in cui i familiari sono tutti tenuti nei suoi confronti e che sussiste anche quando la donna guadagni quanto e più di lui, che gli uomini sono quelli che contano. Il confronto tra la considerazione in cui sono tenute loro e quella in cui sono tenuti i coetanei maschi confermerà quanto fino ad allora avranno rilevato. Al momento in cui scopriranno anche la differenza anatomica contraddistinta dal qualcosa in più che esse non hanno, trarranno le debite conclusioni e dedurranno che coloro che possiedono il pene possiedono anche il prestigio e l'autorità. A nessuno piace scoprire di essere considerati individui di seconda categoria. Questa scoperta causa sofferenza, indebolisce la stima di sé, diminuisce l'ambizione, limita l'autorealizzazione, causa invidia per i privilegiati e desiderio di essere come loro. Il continuo confrontarsi con i maschi, fruitori di privilegi a loro negati, causa nelle bambine una notevole riduzione della stima di sé, indispensabile per perseguire obiettivi di realizzazione e per combattere le proprie battaglie. Le bambine e le donne soffrono infatti in misura molto maggiore dei maschi di senso di inferiorità. Più profonda è l'insicurezza, il dubbio del proprio valore, maggiore diventa l'ansia di adeguarsi al modello richiesto, maggiori diventano gli sforzi, l'attenzione per capire che cosa gli altri desiderano da noi, per adeguarsi alle loro aspettative. Più completo è l'adeguamento, più sicurezza si ha di essere accettati e amati. La scoperta delle differenze anatomiche tra i sessi equivale a quella della differenza del colore della pelle. I bambini che per la prima volta si imbattono in un uomo di colore ne sono fortemente impressionati, ma digeriscono rapidamente e con facilità la scoperta perché non è collegata a rinforzi di natura sociale che assegnano un ruolo predominante alla razza nera. È proprio al bambino di razza nera invece che scopre l'esistenza di individui di razza bianca ai quali è riservato il potere e che hanno un valore sociale ben superiore al suo, che accadrà di provare l'invidia per l'uomo bianco in quei paesi in cui il problema della propria inferiorità sociale gli si presenta in continuazione. La pelle bianca, come il pene, diventa simbolo del potere e quindi oggetto di invidia. Quando le bambine fanno la scoperta di avere qualcosa in meno dei maschi, nessuno le rassicura sul valore del proprio sesso, perché nessuno ci crede. Non ci crede il padre e tantomeno la madre. Non ci credono gli uomini, ma neppure le donne. Nessuna donna vorrebbe seriamente essere un maschio o possedere il pene, ma la maggior parte delle donne desidererebbe sì avere i privilegi e le possibilità che sono legati al fatto di possederlo. La psicanalisi è riuscita a far sentire la donna colpevole di una non raggiunta femminilità nel caso che questa si ostinasse a non voler essere considerata un individuo di seconda classe. L'assenza dell'invidia del pene distinguerebbe infatti, secondo la psicanalisi, le donne veramente femminili, cioè perfettamente adatte e soddisfatte nella loro condizione. Cioè sarebbero autenticamente donne solo quelle che hanno accettato felicemente la loro condizione di inferiorità, che è un punto di vista decisamente maschile. Bene Andrea, ma tu che sei l'esperta di questo libro, spiegaci in parole semplici questa invidia del pene. Ma cos'è? È un po' quello che dicevamo prima, cioè che chiaramente dalla nascita le bambine si ritrovano a vedere, cioè, prima di tutto c'è una sospensione quando si nasce del genere, quindi non si ha una reale percezione dell'essere femminile o maschile e di conseguenza abbiamo effettivamente in quanto esseri umani gli stessi abbiamo la stessa forma mentis che poi si plasma in base appunto alla nostra educazione. Però se fin da bambine, come diciamo prima, qualcuno crea per noi il nostro futuro, qualcuno lo pensa, lei dice appunto le radici della nostra individualità ci sfuggono, altri le hanno coltivate per noi a nostra insaputa, questa è l'invidia del pene, nel senso che all'uomo nessuno dice cosa o deve o non deve fare, o meglio anche se questa cosa in realtà non è vera, perché lo stereotipo, la creazione dello stereotipo ricalca alla fine che cosa? Tutti quegli archetipi che si sono protratti durante gli anni, durante i secoli, e quindi anche l'uomo si sentirà in difetto, il bambino si sentirà in difetto nel momento in cui decide di voler fare il mammo, di voler fare il casalingo. Certo. Si sentirà impotente, si sentirà sbagliato. Sarà eccitato poi. Esatto. Fondamentalmente l'invidia del pene è questa frustrazione al femminile, e questa frustrazione al femminile è assolutamente ampliabile a tutti gli ambiti e in qualsiasi appunto aspetto lavorativo. Non abbiamo le stesse opportunità effettivamente, perché ci insegnano questo, ci insegnano, e una cosa che a me fa molto specie è che l'uomo è attivo, la donna è passiva. Questa cosa della donna ricevente, la donna non ha il fallo, la bambina non vede, si sente mancare di qualcosa, ed è effettivamente la sua appunto personalità viene basata su questa cosa dell'essere ricevente, sì, mi viene da dire passiva. Donna accogliente anche. Esatto, e soprattutto l'uomo agisce e la donna viene guardata. Esatto. Questo è quello che ci viene effettivamente, adesso va un po' meglio rispetto a quando lei parlava dell'invidia del pene, perché comunque sono passati un bel po' di anni. Tuttavia, questo non viene comunque trattato all'interno delle scuole, nel senso, esatto, che la forma educativa, certo, ricalca sempre la medesima, al posto di creare nuove possibilità, si ricalcano sempre gli stessi immaginari. Quindi effettivamente la donna che passa l'aspirapolvere è esattamente quella delle rappresentazioni anni 50 delle pubblicità. Esatto. E alla fine vediamo poco la donna medico, ma basta andare in un negozio di giocattoli e vedrai che ci sono le cucine per le bambine, ci sono i grembiolini, e invece per i bambini c'è il medico, c'è l'abito del pompiere, del poliziotto, di tutto, qualsiasi cosa. La bellezza, cioè l'invidia alla fine sta proprio in questo, e effettivamente se anche ai bambini maschi chiaramente non c'è un'educazione uguale, si sentiranno sempre superiori. E poi ruota sempre tutto intorno lì, la famiglia e la scuola, e purtroppo nella nostra contemporaneità manca questo tipo di educazione. E poi è ovvio che i bambini, gli adolescenti crescono in questo modo, con queste invidie. E soprattutto queste invidie creano chiaramente scontri, frustrazioni. E gravi danni psicologici. E gravi danni, esatto. Portano al bullismo e a tutto quello di cui abbiamo parlato alla fine fino adesso. E anche invece la controparte, quindi le bambine poi crescono con grandissimi complessi di inferiorità. Esatto. Crescono, cioè insomma, con l'impossibilità di credere di poter fare effettivamente quello per cui si è portati. E vabbè, io direi che potremmo anche qui andare avanti per ore a parlare, dibattere e discutere, ma lanceremo una song, un bel pezzo, giusto Lady J? Assolutamente sì, Rambo e Randy Woodkid. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hill. praise is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. War is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now, it's time to run. It's time to run. Run, boy, run. This ride is a journey to run, boy, run. Secret inside of you, run by run. This race is a prophecy, run by run, and disappear in the trees. Tomorrow is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. Dal capitolo 3. Gioco, giocattoli e letteratura infantile. Quando si dà una bambolina o un animale di gomma o di pezza a una bambina piccola, non ci si accontenta di offrirglielo semplicemente, di stare a vedere che cosa ne farà, ma le si mostra anche come si tiene in braccio, come si culla. Questa dimostrazione di cura parentale non si dà al suo coetaneo maschio, perché cullare i bambini non rientra nel patrimonio gestuale delle manifestazioni affettive dei maschi. Di conseguenza si vedono bambine di appena 10-11 mesi che hanno già acquisito il riflesso condizionato bambola-cullamento e, non appena si dà loro in mano una bambolina o un pupazzetto, se lo stringono al petto, lo ninnano. Gli adulti, dimenticando che questo comportamento è soltanto il risultato della loro istruzione, gridano al miracolo biologico. Così piccola, ha già l'istinto materno. La cosa li riempie di gioia perché il fenomeno viene percepito come il sintomo tranquillizzante della normalità. È molto curioso osservare come i maschi della stessa età, non ammaestrati come le bambine, tengano in braccio gli stessi pupazzi in modo molto più casuale, per esempio mantenendoli dritti, non distesi, passandogli un braccio intorno al collo, stringendoli o addirittura schiacciandogli la testa. In ogni caso, il cullamento è quasi sempre assente. È abbastanza comune che al momento di andare a dormire i bambini chiedano di tenere con sé una bambola o un orsacchiotto o qualsiasi altro animale morbido al quale sono particolarmente affezionati. Mentre spesso le bambine portano a letto una bambola, è raro che ciò venga permesso ai maschietti. Se proprio vogliono portarsi sotto le coperte un compagno, bambolotto o animale, che sia del loro stesso sesso. Successivamente si insisterà perché le bambine continuino a giocare con le bambole, poiché questo gioco viene considerato un vero e proprio addestramento alla futura funzione materna, mentre il maschietto che manifestasse preferenze verso questo genere ne verrà dissuaso e spinto verso tipi di giochi aggressivi e competitivi. Quando il maschietto pretende di giocare con le bambole in gruppetti misti di bambini e bambine, la cosa viene tollerata perché in questo caso gli sarà dato modo di assumere i ruoli di padre, marito, figlio, approvati e riconosciuti come maschili. Facciamo che io ero il papà e tu la mamma, oppure facciamo che io ero il bambino e tu la mamma. In questo gioco, ampiamente liberatorio, le bambole vengono sgridate, strapazzate, picchiate, punite, in una parola, gli si impartiscono le stesse proibizioni che i bambini ricevono dai genitori. Fino all'età di 5-6 anni circa, bambini e bambine amano nello stesso modo i giochi di imitazione delle attività casalinghe, desiderano con ardore partecipare alle attività domestiche della madre che hanno un grosso fascino a causa degli elementi usati, l'acqua, il fuoco, gli alimenti, le verdure lavate, fatte a pezzi, affettate, tritate, impastate, cambiano aspetto e consistenza con la cottura, vengono passate, mescolate, amalgamate, condite, tutta una serie di attività che costituiscono esperienze stimolanti e attraenti per i bambini. Mentre la bambina a quell'età passa senza avvedersene dal gioco imitativo alla vera e propria partecipazione alle attività casalinghe materne ed è felice e orgogliosa che le venga richiesta nella misura delle sue capacità con ampio margine per l'elemento gioco, il bambino a poco le rinnega e le cancella totalmente dal suo repertorio. Dopo 5-6 anni le strade dei due sessi divergono profondamente. Mentre i bambini guardano ormai ai lavori casalinghi con un disprezzo dovuto alla raggiunta consapevolezza che quello non sarà mai il loro mondo, le bambine vi sono riportate di forza dalla loro identificazione con la madre e dalle sue richieste di aiuto. I richiami ai loro compiti futuri, ai bambini che avranno, alla loro casa, al marito da accudire, saranno ripetuti, pressanti, continui, convinti come si è che se le si lasciassero libere le bambine, disprezzerebbero i lavori domestici tanto quanto li disprezzano i maschi. Non si tratta dunque di un semplice tirocinio per l'apprendimento di certe abilità, ma di un vero e proprio condizionamento perpetrato allo scopo di rendere automatiche certe prestazioni. Infatti, se l'intenzione degli adulti non fosse questa, basterebbero pochi mesi di insegnamento intensivo prima del matrimonio perché la ragazza imparasse a mandare avanti una casa. I lavori domestici sono così banali che chiunque li può imparare perfettamente in pochissimo tempo. Ma gli adulti sanno benissimo che se non si produce un condizionamento nell'età adatta, cioè quella in cui la critica e la ribellione sono improbabili, sarà quanto mai arduo ottenere queste prestazioni più in là. L'ordine familiare e sociale esige che le donne siano consenzienti a sobbarcarsi il compito di addette ai servizi domestici, poiché il loro rifiuto metterebbe in crisi contemporaneamente la casta maschile, condizionata a essere servita, e l'intera struttura sociale che si rifiuta di supportare i costi del lavoro domestico femminile e quelli necessari all'impianto di una organizzazione che lo sostituisca. Ringraziamo ancora la nostra compagna regista e ribelle Alessia per questi audio. E niente, alla fine capiamo come il punto di partenza è riconoscere pari dignità e valore sia ai maschi che alle femmine e offrire loro le pari opportunità di pensare la propria vita privata e lavorativa che sia senza vincoli legati alla propria appartenenza sessuale. Questo viene continuamente ripetuto per quanto riguarda appunto l'educazione sia a casa che scolastica. E adesso vi lascio a Tecla. Sempre qua, nuova, presente. Stiamo qua. Palleggiando in questo modo, esatto, stasera. Che ci parlerà di... di letteratura. Parlerà di letteratura infantile di un certo livello e che effettivamente è vero. No, è vero. È vero, sta introducendo uno dei personaggi che ha fatto una grande rivoluzione all'interno della... della letteratura per bambini, che è Gianni Rodari, il nostro caro carissimo Gianni Rodari, che anche stasera ritorna nei nostri cuori, perché ricordo che già nell'ultima puntata su questa tematica educazione ai bambini avevo letto delle storie da favole al telefono. Belle. E ho deciso di parlarvi di Rodari perché si collega benissimo al tema di stasera, ovvero come affrontiamo l'educazione alle tematiche di genere, ai bambini e alle bambine. Infatti Rodari è uno scrittore che nei suoi racconti dipinge i suoi bimbi e le sue bimbe, che appunto chiama le sue bimbe, non i protagonisti, come mi ricordava Andrea prima, questo aspetto peculiare. È interessante questo di Rodari, perché lui sospende quello che è effettivamente la narrazione canonica, insomma, del racconto, e soprattutto il protagonista assume caratteristiche molto diverse. Esatto. Non è legato assolutamente, non si sente il peso del genere, della sessualità. Esatto. Infatti dipinge i bimbi e le bimbe come figure indipendenti che ad esempio compiono grandi imprese cavandosela da soli, si staccano da quei modelli fiabeschi contemporanei dei grandi eroi, e nei racconti le bimbe e i bimbi svolgono spesso compiti nella vita quotidiana, fanno grandi viaggi e diventano anche degli ingegneri. Sono pronti a essere degli adulti, insomma. Il suo interesse, infatti, non si limita all'invenzione di storie, ma si spinge a una sorta di pedagogia, quindi di educazione, e di creazione di linee guida per avvicinare i più piccoli e le più piccole alla lettura e alla letteratura. Questo è un aspetto che lo distingue dagli altri e lo farà amare anche ai genitori e agli insegnanti, e non solo ai più piccoli e alle più piccole. Quindi è un autore aperto a tutti e a tutte. Il libro di cui vi parlerò questa sera è Una savia bambina e i modelli femminili. Innanzitutto vorrei soffermarmi anche sul termine savia, che è molto curioso. Cosa vuol dire savia? Cosa significa? Significa buon senso, pieno controllo delle facoltà mentali. Quindi questo è un testo che raccoglie estratti di racconti dove Rodari e le sue bambine, in qualsiasi contesto si trovino, non hanno nulla di remissivo, ma ribadiscono sempre un carattere di indipendenza. E nei vari capitoli vengono analizzati, che sono poi carissimi all'autore queste tematiche, vengono analizzati il corpo, il lavoro, il matrimonio, la famiglia, i ruoli e i modelli educativi. In ciascuno di essi viene marcata la sensibilità pedagogica di Rodari, tanto che ogni capitolo si trasforma in un prezioso insegnamento da conservare nella nostra memoria. Le bambine e donne dell'opera rodariana non sono affatto le fanciulle belle e brave di cui siamo abituati a leggere nelle fiabe di sempre. Per il tema di questa puntata mi sono soffermata soprattutto sull'ultimo capitolo, proprio l'ultima parte, perché parla dei ruoli e dei modelli educativi. Quando si parla di modelli educativi, Rodari si sofferma sul ruolo che possiedono i giocattoli nello sviluppo infantile, quindi ci ricolleghiamo anche un po' all'ultimo audio di Alessia. Vi leggerò quindi degli estratti che spiegano come i giochi comprati dai genitori abbiano un ruolo fondamentale nell'educazione e nell'accogliere l'uguaglianza dei generi. In particolare l'autore ci parla della figura della bambola. Direi una bambola piuttosto insolita e soprattutto, ci tengo a sottolineare, emancipata. Grazie Tecla. Dunque, direttamente dal libro, purtroppo non abbiamo tanta luminosità. Io faccio la lampada. Nessun oggetto per quanto costoso, potrà mai sostituire la presenza amorevole dei genitori. Mentre noi non sappiamo dar loro noi stessi, il nostro interessamento continuo, paziente, fraterno. Inoltre, ovviamente, i giocattoli veicolano anche le attese dei genitori, le aspettative che hanno nei confronti dei figli, i ruoli consentiti o no ai bambini. I giocattoli, dunque, sono uno strumento che deve essere usato con attenzione e soprattutto consapevolezza, per evitare di riprodurre modelli violenti e aggressivi nel caso dei bambini e passivi, come ci ricordava anche Andrea, e limitanti nel caso delle bambine. Se la posizione antimilitarista, specie correlata ai giochi maschili di Rodari, è chiara, ancora più significativa è quella che prende nei confronti delle bambole e dei giochi per le bambine. La bambola è diventata l'ambasciatrice di una concezione reazionaria della donna, mentre bisogna incoraggiare le bambine ad avere interessi molteplici, ad appassionarsi alla tecnica, allo sport, campi in cui ancora oggi l'educazione rivolta alle bambine e alle giovani donne purtroppo, ahimè, scasseggia. Il problema quindi emerge non rispetto all'oggetto in sé, ma quando i giocattoli vengono impiegati per orientare l'educazione dei bambini, indicando loro in maniera univoca e limitante il ruolo che dovranno rivestire nell'età adulta. Rodari prende in esame la bambola, simbolo per eccellenza del giocattolo sessista, e immagina, secondo le sue stesse parole, una bambola per così dire femminista. Qui la bambola, invece di diventare uno strumento di omologazione, si trasforma in un ruolo di anticonformismo e di rivolta. E adesso, quindi dopo... adesso andiamo a comprare tutte le Barbie. Esatto. E quello che vorrei regalarvi adesso è mandarvi degli audio dall'estratto di Una bambola transitor, che è uno dei racconti, dove vediamo questa simpatica bambolina che cosa combina. E il racconto, tra l'altro, comincia proprio nel momento cruciale della scelta dei giocattoli per una bambina da parte dei genitori, fino ad arrivare ad uno strano evento che vede la bambola trasformarsi e la bimba diventare una donna indipendente. Adesso, mentre sblocco il mio telefono e cerco di fare 7 cose insieme... Povera Tecla, lasciamo fare tutto, fa tutto lei. Sì, no, ce la faremo. Problemi tecnici un pochino... Io sono assolutamente alle prime armi. Allora, partiamo subito col primo. Vai. Allora, domanda il signor Fulvio alla signora Lisa, sua moglie, e al signor Remo, suo cognato. Che cosa regaliamo a Enrica per Natale? Un bel tamburo, risponde prontamente il cognato Remo. Cosa? Ma sì, una bella gran cassa, con la mazza per picchiarci sopra. Boom, boom, boom! Dai, Remo, dice la signora Lisa, per la quale però il signor Remo non è un cognato, ma un fratello. Una gran cassa tiene troppo posto, e poi chissà cosa direbbe la moglie del macellaio. Dai, Remo, dice la signora Lisa, parliamo sul serio. E va bene, sul serio. 2 tamburi. Uno in do e uno in sol. So io, dice la signora Lisa. Quello che ci vuole per Enrica è una bella bambola elettronica transitor con la lavatrice incorporata. Cioè, con la lavatrice incorporata, ragazzi. Pazzesca. La bambola con la lavatrice incorporata. Vabbè, io vado subito avanti perché sennò perdiamo il filo della storia. Enrica decide che è il momento di dare 2 schiaffi alla bambola. Per raggiungerla, però, deve arrampicarsi sull'albero di Natale. L'albero, da quel vero incapace che è, ne approfitta per crollare a terra. Vanno in frantumi le lampadine e gli angeli di vetro. Un cataclisma. La bambola è finita sotto una sedia e pensa bene di mettersi a sghignazzare. Però è la prima a tirarsi su e corre a vedere se Enrica si è fatta male. «Ti sei fatta male?» «Non dovrei neanche risponderti», dice Enrica. «È tutta colpa tua. Sei una bambola maleducata. Non ti voglio più». «Finalmente!» dice la bambola. «Spero che adesso giocherai con le automobiline». «Neanche per sogno», annuncia Enrica. «Prenderò la mia vecchia bambola di pezza e giocherò con quella». «Davvero?» dice la bambola nuova. Si guarda intorno, vede la bambola di pezza, la acchiappa e la butta dalla finestra senza nemmeno aprire i vetri. «Giocherò con il mio orsacchiotto di pelo», insiste Enrica. La bambola nuova cerca l'orsacchiotto di pelo, lo trova, lo butta nel bidone delle immondizie. Enrica scoppia in un pianto. I genitori odono e accorrono, giusto in tempo per vedere la bambola nuova che si è impadronita delle forbici e sta tagliuzzando tutti i vestiti del guardaroba delle bambole. «Ma è puro vandalismo!» esclama il signor Fulvio. «Povera me!» aggiunge la signora Lisa. «Credevo di aver comprato una bambola e invece ho comprato una strega!» Entrambi si gettano sulla piccola Enrica, la prendono in braccio a turno, la accarezzano e la coccolano e poi la sbaciucchiano. «Puah!» dice la bambola dall'alto dell'armadio su cui si era rifugiata per tagliarsi i capelli, che per i suoi gusti sono troppo lunghi. «Ma senti», inorridisce il signor Fulvio. «Dice anche puah! Questa può avergliela insegnata solo tuo fratello!» Il signor Remo compare sulla porta, come se lo avessero mandato a chiamare. Gli basta un'occhiata per capire la situazione. La bambola gli strizza l'occhio. «Cosa succede?» domanda lo zio, fingendo di cadere da una nuvola rosa. «Quella lì!» singhiozza la povera Enrica. «Non vuole fare la bambola! Chissà cosa si crede di essere! Voglio andare in cortile a giocare ai birilli!» dichiara la bambola, facendo volare ciocche di capelli da tutte le parti. «Voglio una gran cassa, voglio un prato, un bosco, una montagna e il monopattino. Voglio fare la scienziata atomica, il ferroviere e la pediatra, anche l'idraulico. E se avrò una figlia, la manderò al campeggio e quando la sentirò dire: "Mamma, voglio fare la casalinga come te e lucidare le scarpe di mio marito, di sopra e di sotto", la metterò in castigo in piscina e per penitenza la porterò a teatro. «Ma è proprio matta!» osserva il signor Fulvio. «Forse le si è guastato qualche transitor». «Dai, Remo», prega la signora Lisa, «dalle un'occhiata. Tu che te ne intendi?» Il signor Remo non si fa pregare a lungo, e nemmeno la bambola. Essa gli vola addirittura in testa, dove si mette a fare i salti mortali. Il signor Remo la tocca qui e là, in punti diversi e in altri ancora. La bambola diventa un microscopio. «Hai sbagliato!» dice la signora Lisa. Il signor Remo tocca ancora. La bambola diventa una lanterna magica, un telescopio, un paio di pattini a rotelle, un tavolo da ping pong. «Ma cosa fai?» chiede il signor Fulvio al cognato. «Adesso la rovini del tutto! Sei mai vista una bambola che sembra un tavolo?» Il signor Remo sospira. Tocca di nuovo. La bambola ridiventa una bambola. ha di nuovo i capelli lunghi e la lavatrice incorporata. «Mamma!» dice, ma stavolta con voce da bambola. «Voglio fare il bucato!» «Oh, finalmente!» esclama la signora Lisa. «Questo sì che si chiama parlare! Su, Enrica, gioca con la tua bambola! Sei in tempo a fare un bel bucatino prima di pranzo!» Ma Enrica, che in tutto questo è stata a vedere e ascoltare, ora sembra incerta sul da farsi. Guarda la bambola, guarda lo zio Remo e guarda i genitori. Finalmente caccia un sospirone e dice: «No, voglio andare in cortile a giocare ai birilli con gli altri bambini e forse farò anche il salto mortale». Bellissima, bellissima. E alla fine è diventata una super donna, nostra Enrica. Sì. No, beh, direi che questa leggetela a tutte le vostre bambine, sì. E anche i vostri bambini. Vabbè, una bambola tra... questo era un estratto, poi la storia va avanti, perché questo era proprio il pezzo cruciale in cui praticamente le viene regalata questa bambola dai genitori, e questa bambola ha una lavatrice incorporata, no? E la mamma dice: è questo che ci vorrebbe per mia figlia, una bambola con la lavatrice incorporata, così mi aiuta a fare i mestieri. E poi c'è questo zio Remo, che è un po' una figura come dire, positiva nella situazione, che salva un po' la situazione di Enrica e dice: ma no, ma... dice la mamma: ma regaliamole dei tamburi, così impara a suonare, impara a fare anche altre cose, perché dovrebbe giocare con una bambola e farle fare la lavatrice? Perché non può. Però alla fine vince la mamma e ricomprano questa, perché non perché può, la esatto. Deve fare la lavatrice. Cambia e fa la lavatrice. Sembra ovvio. Ma poi questa bambola si ribella e c'è questa sorta di ribellione della, sì, che cerca di far capire alla bambina che ci sono anche altri ruoli al mondo, no? E quindi, come dicevamo prima, diamo la possibilità, insomma, esatto, a tutti di avere le stesse opportunità, diciamo, perché alla fine è questo di cui si tratta, sì. Dare la libertà, perché finora c'è una libertà apparente, perché nessuno di noi può dire di essere nata dicendo: ok, io posso fare tutto quello che voglio. Esatto, poi la cosa simpatica della storia, che poi è anche una caratteristica, grande caratteristica rodariana, è che la bambina che si rispecchia nella bambola, a un certo punto nella storia i ruoli si invertono, cioè non è più la bambina che fa fare delle cose alla bambola, ma è la bambola che fa fare delle cose alla bambina. Ovviamente è una cosa abbastanza utopica, però è questo proprio il punto cruciale. Una presa, no? Di coscienza. Una presa, della esatto, bambina. Grazie delle parole. Ogni tanto non mi arrivano al cervello, probabilmente. Va bene, io direi, anche qui potremmo andare avanti a sì, parlare esatto, 18.000 ore, sono le 20.35, ora di cena, noi tutti abbiamo fame, quindi mandiamo una songs e poi ci salutiamo. Buon ascolto. Thank you. kinat kochta maro aba mit kharushena bit ragarun dagavi kharoy taglida la loda jan gagomedeshet tugli taglida la loda shen mi qar khar chemamzeo mets mi qar khar shen zgi qar vara kro gor gavits morodo ikzavi dad tiplisia in tituchi visalato taglida la loda jan gagomedeshet tugli taglida la loda shen mi qar khar chemamzeo Shawizina tokhrata oy taglida laloda jan gagomedashe tukli taglida laloda shen mi qar khar chemamze shen ram institutshi tsakhol medarchebi sakhshia sagam khan visairnot blekhanovski bakhshia oy taglida laloda jan gagomedashe tukli taglida laloda shen mi qar khar chemamze oy taglida Eccoci tornate. La prima canzone che avete sentito era Electric Feel di MGMT e la seconda è una canzone stranissima. Di un trio georgiano di tre ragazze che si chiamano Trio Mandili. Bellissime. Mamma le DJ, grazie della cultura musicale che ci doni ogni volta. Meno male che ci sei tu che sei la nostra DJ prefe, ma c'è anche Lady G che si nasconde. È latitante, ma tornerà. Va bene, io direi che siamo arrivati alla chiusura, io sto andando via col microfono, sì, perché voi da casa non vedete cosa succede qua. Sì, sì. Sono le 20:41. Tutto va bene. E non piove, ragazzi, e fuori non c'è piove. C'è ancora il sole. Vabbè, io direi che possiamo ricordare i nostri canali. Okay. Allora, per interagire in diretta, ricordatevi di iscrivervi al canale Telegram, che è @radiozam_chat, tutto minuscolo. Vai, Facebook, Radio ZAM con il trattino, quindi Radio Z-AM. È sempre un disagio, direi. È un disagio, sì, veramente. Per seguire le ribelli su Instagram, tutto minuscolo. @ribelli_zam. E poi per tutte le altre informazioni del mondo ZAM e per qualsiasi cosa, il sito www.zam-milano.com. Io credo che, spero che sia così, mi sembra, che sul sito di ZAM si possono trovare i podcast. Erro? Riascoltare le puntate. C'è l'archivio che trovate su tutte le nostre pagine e lì potete riascoltare i nostri podcast. E così saremo sempre con voi. Esatto. Allora, adesso siamo possiamo... Sì, siamo fusissime, ma è bello la stanchezza radio, ormai, no? È arrivata al limite. Ci vuole un po' di entertainment. Staremo stronzate in realtà. Sì, ci sta tutto. Io vorrei fare un'ultima carrellata di saluti e salutare la nostra piccola Sofì, che è stata la prima di intervenire con una bellissima storia, della quale non ricordo il titolo, parlava di una coccinella diversa. La coccinella senza pallini. E che è ormai la nostra pioniera delle puntate sull'educativa ai bambini, con il suo bel vocino. Poi salutiamo la nostra cara Martina, compagna ed educatrice. Salutiamo anche Serena, che non ha potuto stare con noi. Speriamo che la prossima volta riusciremo a parlare anche con lei. Ci ha illuminato su delle tematiche educative, su come informare gli adolescenti sulle tematiche di genere. Poi salutiamo la nostra ribelle Alessia, grazie mille ancora per i tuoi contributi che rendono tutto molto molto molto bello. Speriamo di averti qui, sappilo che se non vieni qua verrai presa di peso. Linciata, tipo. Poi salutiamo Tecla, ciao Tecla! Ciao Tecla! Tecla, che parlo in terza persona. Ciao Tecla, grazie per il tuo contributo. Ricordiamo a letto Una savia bambina di Gianni Rodari. E una storiella tratta dal racconto Una bambola transitor. E poi salutiamo Lady J e Lady G che non c'è. E salutiamo anche Andrea. E salutiamo anche Andrea. Ciao perché... Andrea. Va bene, salutiamo tutte le ribelli, ciao mamma, ciao nonna. E... Salutiamo tutti i spettatori radio, che non so come, radiospettatori? Radio... Sì, radioascoltatori. O gli ascoltatori radio. Madonna. Vabbè raga, vi auguriamo. Che raga, dobbiamo andare a mangiare. Va bene, basta, abbiamo vi finito. Vi auguriamo la buonanotte e le ultime due canzoni. Oh yes. Ciao. Tanto amore. Ciao. Ciao. Ciao. Oh.